Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, settimana che si chiude per l'industria italiana in modo un po' critico. A febbraio l'indice della produzione industriale ha perso lo 0,6% su base mensile, questo a livello italiano, a livello di Eurozona ha perso lo 0,8%. Parallelamente ci sono dei segnali di arretramento dei BRICS che potrebbero avere delle conseguenze non proprio piacevoli per le nostre imprese. Però, nonostante questo, c'è anche qualche buona notizia. Parleremo durante il corso della trasmissione del fatto che Glaxo, la multinazionale farmaceutica inglese, ha annunciato investimenti per 1 miliardo di euro nel nostro paese nei prossimi 4 anni. Il nostro ospite per commentare come sta andando l'industria italiana in questo periodo è Patrizio Bianchi, economista industriale, fra i pochi che ci sono in Italia, grande appassionato di industria, già preside della facoltà di economia di Ferrara, poi rettore a Ferrara, consigliere di amministrazione dell'IRI nel momento in cui l'IRI ha ceduto le sue partecipazioni, advisor strategico importante e soprattutto economista industriale. Buongiorno professore. Sì, buongiorno a tutti. Allora, produzione industriale in calo a febbraio dello 0,6%, lei come la vede? È il segnale, come le dicevo prima, che il quadro mondiale si sta rallentando e soprattutto stanno rallentando anche quelle economie che erano state il trascinamento degli ultimi 5-6 anni, soprattutto il Brasile, che sta in una crisi veramente molto dura, siamo al meno 4-5%, e la stessa Russia che non recupera. La Cina stabilmente ormai è al 6%, che è tanto, ma è la metà di prima. Rimane l'India, che però, come noi sappiamo, è una realtà molto variegata. C'è un problema quindi di nuovi mercati. Bisogna trovare nuovi mercati. E quali possono essere i nuovi mercati per i nostri imprenditori? Guardi, noi sappiamo che la parte di industria italiana che sta continuando a crescere e che è anche in controtendenza rispetto al dato generale sono i produttori di macchine, di sistemi di produzione e quindi di intelligenza produttiva. Esistono due cose: da una parte nuovi mercati fisici, tira l'America, tirano gli Stati Uniti, bisogna ritornare massicciamente negli Stati Uniti, ma vi sono realtà... Gli Stati Uniti e la Germania sono già i nostri primi due clienti, professore. Sì. No, ma bisogna allargare, perché loro stessi, soprattutto gli Stati Uniti, si stanno riorganizzando e molta dell'industria americana sta cominciando ad affrontare in questo momento, loro sono in arretrato rispetto a noi, il tema industria 4.0, cioè quello dei sistemi intelligenti di produzione, e noi lì possiamo trovare nuovi mercati. Dall'altra parte è i nuovi mercati che emergeranno, ad esempio quelli africani, dove comunque vi è ancora una fase di prima crescita e dove noi possiamo consolidare rapporti di lungo periodo, perché il problema è il lungo periodo oggi, insediarsi. E poi vi è l'ultimo tema, che è ancora più servizio dentro alle nostre produzioni e alle nostre vendite. Ecco, quindi mi sta dicendo che l'arretramento dei BRICS è strutturale, non è che il Brasile, la Cina, la Russia hanno perso quei 4-5 punti per un po' di mesi, ma poi dopo un po' tutto tornerà come prima e si tratta di aspettare. No, è l'inizio proprio di un'inversione di tendenza strutturale. Ma guardi, noi abbiamo imparato in questi 10 anni che l'idea che una crisi è semplicemente una sospensione temporanea di un trend che poi riprenderà non è più vera, non è vera per noi, non è vera per l'Europa, non è vera anche per il Brasile e la Russia. In Brasile e Russia noi abbiamo un dato che io trovo rilevantissimo. Il Brasile era cresciuto moltissimo negli anni di Lula sull'idea di una diffusione della nuova industria, dell'industria, della partecipazione. Questo processo deve riprenderà necessariamente. E poi vi era stato invece un consolidamento di una industria di grande impresa, soprattutto su petrolio e materie prime. La Russia anche ha avuto una fortissima spinta, soprattutto sulle materie prime. La crisi delle materie prime, del prezzo della materia prima, ha coinvolto tutta la loro economia, anche con vicende politiche, soprattutto nel caso Brasile, è noto. Certo, ecco, quindi credo che riprenderanno, ma li possono riprendere solo se avvieranno un processo di diffusione dell'industria su cui noi potremo reinserirci, perché noi abbiamo le tecnologie per l'industria diffusa. Però Campacavallo, una roba del genere, prima che si avvii, parliamo di 2-4 anni. Parliamo di 2-4 anni, sì. Ecco, dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con... Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea col professor Patrizio Bianchi, economista industriale. Stavamo parlando del rallentamento della produzione industriale sia a livello italiano sia a livello europeo, e Bianchi lo collegava all'arretramento dei BRICS, di cui abbiamo illustrato le ragioni, l'arretramento di Brasile, Russia, India, Cina. Il suggerimento era di puntare di più sugli Stati Uniti, che sono il nostro storico cliente, ma possono esserlo di più, e magari di guardare all'Africa, suggerimento ovviamente agli imprenditori e anche a coloro che si occupano di queste materie, che non sono pochi, visto che siamo in un paese a imprenditoria diffusa. È così, no, professore? Non solo, manca un pezzo purtroppo, che è il pezzo Europa. Perché in tutto questo quadro di economia mondiale che noi abbiamo discusso non abbiamo colto il ritardo che sta accumulando l'Europa, e un'Europa che, come lei vede, è sempre più divisa fra un centro tedesco-centrico e dall'altra parte delle periferie sempre più lontane. Se manca ancora l'Europa, una politica di rilancio dell'Europa nel suo insieme, viene meno il principale player per le nostre imprese, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta. Ecco, però per parlare della settimana che si è appena chiusa, dobbiamo anche parlare di buone notizie. E una notizia che mi ha colpito è l'annuncio di Glaxo, multinazionale britannica della farmacia, che vuole investire 1 miliardo di euro in Italia nei prossimi 4 anni. L'annuncio proviene da un articolo di Roberto Turno sul Sole 24 Ore, uscito il 13 aprile. Turno, che è un bravo cronista, ha ricavato la notizia sentendo Daniele Finocchiaro, l'amministratore delegato dell'Italia, e Luc De Bruin, l'amministratore delegato di Glaxo Vaccini. Le cifre sono queste. L'investimento di 1 miliardo andrà soprattutto nel settore dei vaccini, che è il settore dove Glaxo ha una leadership in Italia, anche perché è stato fatto uno scambio di attività con Novartis, per cui Glaxo ha preso le attività di Novartis nei vaccini e ha ceduto le proprie nell'oncologia. E 400 milioni andranno invece in ricerca e sviluppo nel farma tradizionale. Questi 600 milioni investiti in 4 anni sui vaccini andranno 500 milioni sul polo di Siena e 100 milioni nello stabilimento di Risa a Grosseto. In particolare viene finanziata la ricerca per il vaccino contro il meningococco B, fatta grazie alla scoperta senese del professor Lino Ruoppoli. Glaxo è una multinazionale che fattura 23 miliardi di sterline. Di questi 23 miliardi di sterline, 3,7 miliardi sono nei vaccini. Nel mondo ha 101.000 dipendenti, in Italia Glaxo fa 1,6 miliardi di fatturato. Quindi voi immaginate un'azienda che fa 1,6 miliardi e investe un altro miliardo, quasi il 70% del fatturato. Come commenta questa notizia, professor Bianchi? Ha tre cose ancora una volta. La prima è questa. Il leader mondiale di un comparto specifico, i vaccini, in realtà investe laddove c'è il leader mondiale, ma diciamocelo, della ricerca sui vaccini. Perché quando uno dice io vado a investire in Italia all'Università di Siena, è perché lì vi è una eccellenza riconosciuta che in lunghissimi anni ha accumulato quello che oggettivamente è il punto di riferimento nel comparto. Però le devo dire che probabilmente noi in Italia queste cose le sottovalutiamo, perché sì, noi in Italia abbiamo moltissimi centri universitari e non solo, che nei loro comparti specifici hanno uno una quantità di ricerca riconosciuta a livello mondiale, ma non abbastanza a livello italiano. Abbiamo, secondo impianti di ricerca che sono straordinari, e terzo abbiamo una cosa che forse la gente non si rende conto, ma abbiamo i dati, cioè i numeri di studi e le cosiddette biobanche, cioè i depositi dei reperti, che ci permettono di continuare a fare ricerca. Secondo tema, noi qua in Italia abbiamo non solo università e ricerca, ma anche degli impianti nell'industria farmaceutica di riferimento. E terzo, la Glaxo deve fare un ragionamento, non può più stare solo in Inghilterra, anche in previsione del Brexit. Dopo che ho elencato una notizia positiva, sempre il giorno 13 aprile c'è stato un articolo che invece io ho trovato un po' inquietante sul Fatto Quotidiano, intervista a Dacia Maraini, grande intellettuale, grande scrittrice che io stimavo molto. Nel corso di questa intervista Dacia Maraini dice delle cose un po' incredibili contro l'industria, che secondo me bisogna evidenziarle perché sono esemplificative purtroppo della mentalità anti-industria che c'è in Italia. Allora, Dacia Maraini parla della delusione del mito del dopoguerra, quello dell'industrializzazione. Il paese ha pensato che il benessere e l'emancipazione stessero nell'investire tutto sull'industrializzazione e quindi si è buttato su quel fronte, perdendo l'arte dell'agricoltura, la cura dell'artigianato, l'attenzione al territorio e al turismo. Di ciò che ci appartiene di più e sappiamo fare meglio, insomma. Credere al mito dell'industrializzazione, dice la Maraini, ha fatto che il paese buttasse a mare tutte quelle profonde conoscenze e competenze che ci caratterizzavano come paese. Ora, quello che dice la scrittrice è tutto sbagliato, non è un'opinione, sono fatti proprio oggettivamente sbagliati. Però sono indicativi di una mentalità, no, professore? Soprattutto sono quelle che parlano di un'industria che non esiste più da nessuna parte al mondo, perché parlano di quell'industria di massa che in realtà probabilmente ha caratterizzato gli anni 50, che ha determinato anche grosse migrazioni interne, ma che da circa 20 anni non esiste più, perché se l'industria è la Glaxo, se l'industria è la produzione di valore tramite competenza, ed è questo su cui stiamo lavorando, devo dire che c'è non solo una profonda ignoranza, ma c'è anche un vuoto culturale. E certamente, poi anche quest'idea della contrapposizione tra l'industria che è artificiale e dannosa e l'agricoltura che è sana, dimenticandosi che proprio l'industria agricola si avvantaggia dell'industria che c'è in Italia, perché noi facciamo macchine agricole che sono tra le migliori al mondo e che sono alla base della competitività sia della nostra agricoltura sia dell'industria alimentare. Guardi che nel mondo ci sia tanta cattiva industria, tanta cattiva agricoltura, tanto cattivo commercio, lo sappiamo. Però questo ci dà un'indicazione molto forte di dove un paese come l'Italia si può riposizionare. Noi ci dobbiamo riposizionare nel mondo come quelli del valore aggiunto, come quelle cose in più. Questo vale per l'industria, vale per l'agricoltura, vale per i servizi. Allora, guardi, a fronte di, diciamo, tanta non cultura, però si apre uno spazio anche di una nuova cultura, non solo dell'industria, ma di una nuova economia, che però è l'unica via d'uscita per un paese come il nostro. Senta, io andrei avanti a parlare con lei per ore e probabilmente lo farò, ma in privato. Adesso la trasmissione si deve chiudere qui. Saluto i nostri ascoltatori e saluto il professor Bianchi. Saluti a tutti, arrivederci. A presto, professore.